Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, buonasera, a seconda dell'orario in cui ci ascoltate, la mattina alle 6.45 o in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail alla quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Invito a scrivere lettere che non riguardino casi personali, ma, come spesso ripeto, casi che coinvolgono una moltitudine di persone. Alcuni giorni fa abbiamo ricevuto in redazione una bella lettera di Tosca Tinti, che è una nostra radioascoltatrice sarda, ci ascolta da Cagliari, la quale ha fatto presente una situazione che riguarda lei, ma che riguarda centinaia di persone in tutta la Sardegna e verosimilmente, anche a causa forse dei fondi che vengono meno, che riguarda migliaia di persone in tutta Italia. Lei è una paziente dell'AIAS, vale a dire dell'Associazione Italiana di Assistenza agli Spastici, e riceve una telefonata che gli dice che dal 1 di aprile viene dimessa dall'AIAS, che non può più seguirla. L'AIAS in Sardegna è un'organizzazione che dà lavoro a migliaia tra medici e terapisti e assiste persone che hanno davvero bisogno di essere assistite, non soltanto spastici, ma anche persone che sono affette dalla sindrome di Down, chi deve recuperare il linguaggio, quindi ci sono dei logopedisti, persone semiparalizzate, insomma. Giustamente si chiede la signora Tinti, ma chi ci aiuta? Come possiamo fare? È chiaro che noi cercheremo, anzi stiamo già cercando, l'interlocuzione dell'AIAS Sardegna, ma sembra abbastanza complessa. Quando le cose vanno bene tutti rispondono, quando poi ci sono delle difficoltà, i telefoni squillano a vuoto o le segretarie rimandano a centinaia di telefonate, ma noi siamo piuttosto del marmo e quindi continueremo. Intanto do il buongiorno alla signora Tosca Tinti. Buongiorno. Può spiegare la sua storia? Io ero un paziente dell'AIAS, ho avuto per anni la terapia quotidiana, sono 19 anni in carrozzina, però il fatto di avere la terapia mi metteva in circolazione il sangue, le gambe non funzionano per camminare, ma vanno bene, e anche tutto il resto. Certo. Se non che a un certo punto hanno portato la terapia da quotidiana a trisettimanale. Poi il 1 aprile, proprio un bel pesce, mi ha telefonato il dottor Rajab, che mi ha detto: signora, da oggi più niente terapia. E quindi lei si è trovata di punto in bianco senza terapia. Senza terapia. Ecco, ma ci sono state delle motivazioni, ad esempio, dei finanziamenti, sì, delle risorse? Sì, ecco, sì, ce le può spiegare? La descrizione, la ragione è questa. Secondo la nuova normativa che è entrata in funzione da prima che andasse via la signora Di Lindin, e adesso che abbiamo il nuovo, che al posto di Soru abbiamo Cappellacci. Ecco, intanto specifichiamo, la signora Di Lindin era la vecchia assessora, usiamo questo termine al femminile perché è corretto in italiano anche se qualcuno storce la bocca, alla salute e alla sanità della regione Sardegna. Sapete che poi ci sono state le elezioni, via Soru dentro Cappellacci, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi. Quindi nuovo assessore e dunque nuove regole, signora Tinti. Lei non ha più a questo punto l'assistenza? No, più niente. Ecco, ma io mi domando, no, da persona della strada, oltre che da giornalista, se una persona soffre e sta male, come lei soffre e sta male, ha bisogno di essere sostenuta per non stare peggio, diciamo. Ecco, mettiamola così. Sì. Lei oggi a chi si rivolge? Ho un'amica terapista che dietro compenso viene a farmi la terapia. E quindi non si rivolge più alle strutture pubbliche. Ecco, ma l'AIAS è una struttura pubblica? No, ecco, ho fatto la pratica. Sì, sì, ho fatto la pratica. Perché l'AIAS è una struttura convenzionata, suppongo, no? Sì. Ecco, sì, sì. Ecco. Mi vuole per piacere spiegare il suo percorso con le strutture pubbliche? Lei abbandona o viene abbandonata da una struttura convenzionata che le metteva a disposizione la terapia e si rivolge alla struttura pubblica, suppongo all'ASL di Cagliari? Ho chiamato il mio medico, ha fatto la richiesta per la visita specialistica. È venuta una fisiatra, ha detto: va bene, gliela faccio dare. E mi ha preparato un papiro e io l'ho mandato alla ASL, però 60 applicazioni all'anno. Ah, ecco, allora specifichiamolo. Per una persona come lei che è su una carrozzella, carrozzina, chiamiamola come vogliamo. Non ho deambulazione. Non ha deambulazione, esatto, appunto, non ha fatto... da 19 anni. Esattamente, non ha fatto deambulazione, come quello che stavo appunto dicendo. Però con la terapia mettevano in circolazione il sangue. Certo, quindi 60 applicazioni all'anno vuol dire quanto? Una alla settimana vuol dire 4 al mese più o meno. Sì. Ecco, una curiosità, senta, ma lei quanto paga per essere assistita? Ora mi dica lei se quotidianamente o quante volte a settimana. Dalla mia amica? Certo. 20 euro. 20 euro per un'ora? Sì, per un'ora. 20 euro per un'ora. Questa persona è una persona professionista o una persona che viene lì? No, no, è un caso strano, è un dipendente AIAS. Quindi in cassa integrazione che adesso lavora... Sì, oppure che lavora di mattina all'AIAS e... E perché una volta alla settimana viene da me. Ma lei le ha accettate o le rifiuta queste 60 prestazioni annuali che l'ASL di Cagliari le ha concesso? Le accetto. Quindi le ancora farà? Ancora però non le ho avute perché il papiro non era compilato bene, l'ho dovuto rimandare. E per fortuna che ho un genero violinista che lavora solo una volta alla settimana ed è disponibile per andare a venire. Signora Tinti, io la ringrazio per la sua testimonianza e adesso ovviamente andremo alla ricerca della risposta dell'AIAS o perché no dell'AS di Cagliari. Bene, alla ricerca dell'AIAS Sardegna ci siamo andati, ma ahimè purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto, o meglio, i nostri tanti contatti telefonici poi non hanno sortito neppure un nominativo che potesse interloquire con noi, fatto abbastanza strano. Ringraziando Dio però c'è che chi ancora in Italia le leggi della democrazia le conosce, come ad esempio il dottor Giuseppe Frau, che è il direttore sociosanitario dell'AS di Cagliari, che quindi ringrazio per il suo intervento. Buongiorno Frau. Buongiorno. Allora, lei ha ascoltato quello che ha dichiarato la nostra radioascoltatrice. Intanto la prego di correggere tutte le imprecisioni che eventualmente siano state dette, non tanto dalla radioascoltatrice, ma dal sottoscritto. Ma non ci sono grandi imprecisioni. Devo dire la verità che l'ascoltatrice ha manifestato un bisogno abbastanza frequente di un diritto che gli deve essere conseguito. Ecco, ma questo è un bisogno, prego, che è un bisogno che viene presentato, a cui dobbiamo dare risposte come servizio pubblico, non c'è dubbio. Quindi partiamo da questa considerazione. La domanda che ci facciamo è: come mai non gli viene data la risposta che la signora aspetta? Ecco, questo è doveroso chiederlo a lei, non perché debba supplire l'AIAS, ma per cercare di capire quanto un'azienda sanitaria locale può rispondere effettivamente al bisogno di una persona, in questo caso è Tinti. La signora Tinti, potrebbero essere altre che hanno non bisogno di 60 terapie, ma molte di più per sentirsi vive. Certo. Allora, io distinguerei un po' l'appropriatezza dei trattamenti su cui si potrebbe intervenire, ma in una trasmissione come questa ci porterebbe via tanto tempo. Certo. E poi non verremmo neanche capiti se non da persone esperte. Certo. Rispetto al bisogno e alla domanda che la signora presenta. Nella nostra ASL abbiamo per questo costituito il punto unico d'accesso, per poter dare queste risposte alle persone, prenderle in carico su domande presentate, su bisogni che sottendono le domande. Cosa succede però nel sistema, in quello italiano ma soprattutto in quello sardo su cui abbiamo lavorato in questi anni? Che l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione nella nostra regione sono al 95% in mano, si fa per dire, sono erogate da soggetti privati convenzionati, cosiddetti accreditati. Certo. Legalmente accreditati. Certo. Quindi diritto di esistenza, eccetera. Le ASL al massimo erogano il 5% delle prestazioni. Un'ASL grossa come la nostra, è ovvio che dobbiamo farci carico di assicurare l'assistenza tramite i soggetti convenzionati. Il percorso è un percorso di accesso diretto ai centri convenzionati, se è un percorso sanitario direttamente esigibile. E dunque la persona si presenta al centro, gli viene fatto un progetto riabilitativo che prevede tempi di assistenza, obiettivi da raggiungere e quant'altro. E il punto è che purtroppo questo punto di assistenza nell'AIAS per la signora Tinti ed altre centinaia, forse migliaia di persone in Sardegna non c'è più. Esatto, no, più che non c'è più, essendo un progetto che dura da anni e poiché le delibere ultime regionali hanno cercato di mettere un po' di ordine nel settore, ci sono momenti di applicazione di queste delibere forse troppo rigide rispetto a un passato forse troppo largo. Certo, ha perfettamente. La signora soffre in questo momento di questo passaggio tra un passato estremamente largo, ti do tutti i giorni il trattamento per 18 anni e quant'altro, oggi cominciamo ad avere un percorso diverso, un progetto, giorni di terapia, mantenimento e quant'altro. La signora sicuramente è nella fase del mantenimento, no? Assolutamente, purtroppo in Italia quando ci si approfitta delle maglie troppo larghe, poi a farne le spese successivamente, quando le vacche non sono così grasse, sono coloro i quali invece hanno veramente bisogno di essere aiutati. Io ringrazio il dottor Frau per il suo intervento, ringrazio in regia Pietro La Corte, in studio Laura Faggin, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per un nuovo appuntamento con Un Abuso al Giorno.